Yes, people, questo è Jolly Roger. Come ha detto il nostro amico Luca, iniziamo questa nuova puntata di Jolly Roger. Venerdì 2 dicembre 2022, sono le 17 e qualche minuto. Iniziamo questa nostra nuova puntata. Siamo quasi tutti al completo. Manca il nostro amico Matteo, che purtroppo è ammalato a casa. Settimana scorsa è capitato anche a me. Infatti, Jolly Roger non è andato in onda, ma venerdì 25, cioè settimana scorsa, è stato il nostro primo compleanno, il primo compleanno di Jolly Roger. E iniziamo con un pezzo che è stato scelto dal nostro amico Matteo e che dedichiamo, e poi più tardi proviamo anche a sentirlo telefonicamente. Il primo pezzo che è passato alla prima puntata di Jolly Roger. Iniziamo questa nuova puntata così. Sembra una città tra le urla, non sento più la tua aggressività che mi culla. E da ieri che sei in piedi col mio whisky e non mi vedi tra i problemi che ti crei. Sono sotto la pioggia. Era il primo pezzo di Jolly Roger. Il freddo, l'amore è come un atto violento. Sei vivo perché brucia dentro. Sto contando mille passi, sperando che la pioggia non passi mai. Un solo cuore per gli attacchi, tu ci cammini sopra con i tacchi. Sai, il dolore uccide, sono incline a soffrire. Quando senti che è la fine, ciò che unisce è più sottile. Vedi che il filo si spezza, diventa una gara ma in stato di ebbrezza. Meglio restare coi piedi per terra, non siamo all'altezza. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18, come sempre in diretta dal Brancaleone. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che frequentano e passano lo spazio del Brancaleone. Salutiamo le nostre amiche del gas che in quest'ultimo periodo condividiamo poco insieme lo spazio, ma condividiamo tanta amicizia e tanta voglia di stare insieme. Infatti, più tardi ne approfittiamo per farci un piccolo antipastino aperitivino insieme. Era un anno fa quando iniziava Jolly Roger, il 25 di novembre del 2021. Piano piano sveleremo alcune cosette. Iniziamo la puntata passando il microfono alla nostra amica Alice. Ciao a tutti, oggi volevo consigliarvi una ricetta per il 24 dicembre che si avvicina il pesce. Lo dovete iniziare a comprare. Ora vi consiglio il mercato di Valmelaina di giovedì e il sabato. Il banco del pesce offre una grande varietà di prodotti, insalata di mare per 4 persone, 1 kg di gozze, 600 g di vongole, 300 g di gamberetti, 300 g di polipetti, 300 g di calamari, una carota, una cozza di sedano, cipolla, rosmarino, maggiorana, olio, un bicchiere. Timo, che cos'è? Il timo è una spezia, visto che insomma si parla di ricette natalizie, è giusto anche condirle per bene. Limone, un cucchiaio di mostarda francese, spicchi d'aglio, prezzemolo. E cucinare, cucinare, cucinare per poi mangiare. 1. Pulire le cozze e vongole e lavarle bene. Cozze e vongole in padella coperta a fuoco alto così si aprono. Tenere il liquido infiltrato. Infiltrarlo pure. Pulire cozze e vongole con metterli in una pentola con il resto dei molluschi, con 1 litro d'acqua e il trito di cipolla, sedano, carota, rosmarino, maggiorana e timo. Bollire per 20 minuti, poi filtrare, rimettere il brodo in pentola con i gamberetti, bollire per 3 minuti e sgusciarli, filtrare il brodo, prendere tutto il brodo filtrato, farci bollire i polipetti e i calamari, tagliarli a pezzi, salsa con 100 g di olio, un cucchiaio di mostarda, succo, limone, spicchi d'aglio, tritati, prezzemolo, sale e pepe. Pronto per essere mangiato. Mitica Alice, mitica la ricetta natalizia, quindi abbiamo detto che è un anno di Jolly Roger, ma ci stiamo avvicinando anche al Natale. E proseguiamo la nostra puntata col primo pezzo scelto da Alice. Qui siamo anche guarda il cielo, è proprio lì una stella cade. Tu che balli appena uscita da un locale. Dopo un po' la timidezza ti scompare. E ci troviamo, arriva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra. Anche il mare ci guarda, sembra lo faccia apposta. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. questa sera, stasera, oh. Sento, già mai sei rimasta qui dentro. Non è più questione di tempo. Se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volto un cornetto. E poi carichiamo la macchina senza sapere dove si va. E poi mi innamoro ma capita. Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Quando penso che io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi. Frega di tutta sta gente che ci guarda come fossimo matti, ma io vorrei fossimo sempre così. Quando penso che io sorrido e dopo non mi importa di niente, se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora che anche se è tardi, dormite a me ti aspetto da una vita intera, intera. Stasera, stasera, oh, un sogno che si avvera, avvera, oh, perché... E ritorniamo in diretta sempre qui su www.pirateradio.it. Questo è Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18 in diretta dal Brancaleone. E come abbiamo esordito a inizio puntata, questo è il nostro primo anno di attività, il nostro primo anno di Jolly Roger, seconda stagione. Abbiamo iniziato un anno fa, siamo partiti veramente da zero. Abbiamo iniziato frequentando lo spazio del Brancaleone che ci ospita e che condivide con noi questa attività, questo laboratorio per l'integrazione di tutti e tutte. E siamo contenti di essere qui durante questa prima stagione. Abbiamo avuto modo di conoscere e frequentare diverse realtà, fra cui salutiamo in questo venerdì il progetto Totem, che è arrivato alla conclusione di quello che è stato un lungo percorso. Dovevamo essere presenti anche noi in quel di Piazza Filattiera per la realizzazione di un murales, del murales di Totem appunto, ma il tempo purtroppo è quello che è, quindi siamo qui a proseguire i nostri festeggiamenti sempre solo dal Brancaleone. E ora passo il mic ad Alice che ci racconterà qualche aneddoto anche di quello che è Jolly Roger. Allora, oggi vi voglio dire una cosa. Visto che l'altra volta è stato il mio compleanno, ma non stavo da molto bene. Eh sì, è stato anche il compleanno di Alice. Non chiediamo alla signorina quanti anni compie, quanti anni hai compiuto. Non me lo voglio dire perché so tanti. Ma che so tanti, è un fiore rispetto a quello che sono io ormai. Ma non si dicono, non si domandano l'età alle donne. Però si può dire fino a 20, dai. Mitica, mitica. Insomma, quindi oggi festeggiamo fra le varie cose anche il compleanno di Alice. Allora passiamo a un altro pezzo scelto da Alice e poi ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Questo è Jolly Roger. Sarà Indigo Elettra, poeta urbano, Elettra Lamborghini. Sulla strada di casa non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire, l'importante è capire se vieni tu da me o vengo io da te. È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, bailando il toro il loco. Chissà se dopo tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova. Mando mille messaggi nero. È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, bailando il toro loco, chissà se dopo dormiamo qui da me, vedrai che il cielo non ci trova. Sulla tua schiena, da soli, io e te. Prendimi per mano, non dirmi neanche se torniamo, che non mi importa dove andiamo, oh oh. Basta che vogliamo, oh oh. Sono la tua bocca, sento gusto caramello. Fermati un secondo, che se no non mi concentro. Vedrai che il cielo non ci trova. Facciamo tardi questa sera. E non riesco a nasconderti che non sarebbe venerdì senza Jolly Roger. E ritorniamo in diretta, raccontiamo un po' quello che è stato Jolly Roger, ripercorrendo alcuni aneddoti. Allora, io ricordo con piacere e stupore la prima volta che siamo venuti qui al Brancaleone, che non si sapeva nemmeno cosa fosse. Mi ricordo Luchetto che era imbarazzatissimo, non sapeva se scendere, salire, dove andare, cosa dire, con chi interagire, ma ora si muove, frequenta lo spazio in maniera allegra e vivace. Un'altra è Alice, ricordiamo l'amicizia che è nata fra Alice e Maria del Gas. Bel, che poi più tardi lo diciamo lì, se famo un bel aperitivo alla faccia di chi ci vuole male per festeggiare, diglielo un po'. Alla faccia nostra. Dai, dai, e beh, allora, quindi abbiamo stiamo raccontando di questo primo anno. Ora chiedo un attimo una cosina ad Alice. Alice, allora, raccontaci un po' cosa ti piace di Jolly Roger, primis. A me di Jolly Roger mi piace molto chiacchierare, parlare di tutto e dire tante cose belle, carine, perché io infatti dico sempre cose belle. Esattamundo. Esattamente come ha detto Pietro, però solamente a volte ci sono dei rapporti anche con Luca e Chiara, come per esempio, ecco, lei si sta inculicendo perché... Sta arrossendo più dei suoi capelli, esatto, diciamolo. Bravo! Però questo è bello di Jolly Roger, che alla fine la buttiamo come sempre in caciara perché ci divertiamo e siamo bene insieme, giusto? Esattamente. Va bene, e noi proseguiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo sempre qui in diretta dal Brancaleone. Ho perso il conto di quanti viaggi ti fai, quanti chilometri senza partire mai. Io cerco il mare mentre tu cerchi il wifi. Quest'estate cosa fai? Faccio di tutto, prendo e mi butto. Papito no habla español, ándale, ándale. Alto quanto sei figo, capisci che dico? Sarà un tattoo di cui mi pentirò. Andale, andale. A casa in un posto straniero, dal cielo cade un desiderio, a 100 partiti da zero. Che ti prende, se fuori c'è la notte che si accende, dammi un'estate che ricorderò per sempre. Salta sulle spalle tra la gente, solo un battito che sale che ti prende, sei una musica che brucia sotto pelle, sai che l'estate può durare anche per sempre. Anche Jolly Roger è molto vita loca. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18 in diretta da su www.pirateradio.it. saluto tutti gli amici della chat di Telegram di Pirate Radio, saluto tutti gli speaker, tutti i vari programmi che partecipano a questa realtà, saluto fra i saluti anche una news, un allarme spoiler, come si dice in gergo con termini tecnici. Saluto gli amici di Gemini Network, anche noi a breve con Jolly Roger andremo in diretta su Gemini Network, piano piano annunceremo anche questa piacevole collaborazione. Detto questo, passo il mic al nostro amico Luca. Buonasera a tutti, io sono Luca e oggi vi vorrei raccontare della storia dei croissant. Come nasce un dolce spesso? Non si sa, la sua memoria si perde nei secoli nelle tradizioni tramandate da centinaia di migliaia di anni, travolta la sua storia diventa leggenda. A proposito del croissant, il classico dolce da colazione tanto amato dagli italiani e dai francesi, la leggenda narra che sia stato inventato a Vienna in Austria in occasione della sconfitta dell'impero ottomano nel 1683. Te stoppo un attimo, Luca, per dire che quindi i francesi che c'hanno la puzzetta sotto il naso, che si sentono sempre calla con questi croissant, stiamo dicendo che quindi i croissant sono austriaci. Mitico. L'esercito turco, per abbattere le mura della città, aveva architettato di piazzare di notte delle dinamite nei conicoli sotterranei della città. Furono i fornai già svegli al lavoro nelle ore notturne ad accorgersi degli strani movimenti dei turchi e a dare l'allarme. L'imperatore sconfisse così l'esercito turco e commissionò poi gli stessi panettieri la realizzazione di un dolce che ricordasse l'evento e la celebrasse la vittoria del Kipferk. L'evento Kiffer, che vuol dire? Scusa un attimo, aspetta che mi sono perso. Cornetto, la cui forma ricorda la bandiera ottomana, e così il croissant sarebbe un dolce a forma di luna spicchio che viene mandato in Germania, se in Germania, in Francia, ma più conosciuto in Austria perché è originale tipico dell'Austria. Mitico, e quindi i francesi stanno a posto dove stanno. Noi proseguiamo la puntata con un altro pezzo musicale e proseguiamo così. Sai che mi piace guardare le cose dall'alto. Ti dico quello che penso, non mi pongo freni. Di giorno sorrido, poi forse di notte piango. Mi ha fatto male, ma so già che passerà. Capita di sentirsi un po' soli, di volere prendere un volo senza direzione per riempire il vuoto, che magari trovi le risposte e i modi per sciogliere quei nodi. Per annegare, è giusto combattere senza mai sapere. Quando sulla pelle io ci sento il mare, e quando realizzi che ti senti solo, vuoi qualcosa per riempire il vuoto. Ciò che mi rimane è caricare il corpo. Io voglio le risposte per spiccare il volo. Clementino Banger nelle piazze, e chi non si arrende è fuori classe. Muovo le masse fuori dalle masse, seguo le mie stelle pure fuori asse. Quando cammino se levo respiro, si pensa ammazzata la vita. Voglio spezzare la mia catena in quelle notti di luna piena. Sono no, notti di luna piena. Yeah, yeah. Dove spero ne valga la pena. Si hey. Muovono questi corpi mentre balliamo sbronzi. Non ti chiedo che fai, so che direi. Ne ho incontrati di stronzi. Luna piena su di noi. Domani non so se saremo qui o forse trovo. Notti di luna piena. Spero solo che non piova, che ci sia sole. Luna piena si su di noi. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Avevamo passato il mic al nostro amico Luca, che ci ha un po' raccontato la storia del croissant, che non è francese e lo voglio rivendicare a più non posso. Nel frattempo saluto Carletto, che è passato a salutare, a salutarci. Saluto anche Damiano, il collega, che anche lui insieme al nostro amico Lucone e la sua quintalata di allegria. E ritorniamo in diretta ripassando il mic al nostro amico Matteo, al nostro amico Luca. Sono sempre io, Luchetto, Luchigno. Sabato sono andato al negozio snack americani Bubble SLRS a Via Nomentana, che Bubble vende un milione, ma intendo un milione di roba. Ci sono andato con mio zio Gabriele, ovvero il cugino di mio padre, che lo chiamano Erbove perché vende il bovino. Raga, questo solo, queste cose solo su Jolly Roger le potete sentire, mi raccomando. Dai, torniamo a Erbove. E inoltre sono a Bubble, mi sono preso Fanta Strawberry, Fanta Berry, Pringles alla rustica classiche, poi mi sono preso qualche Reese's, e inoltre non ho preso un milione di prodotti perché altrimenti esageravo, e inoltre ho visto un milione di cose, mi sono preso anche un tè americano chiamato Arizona. Gli Arizona sarebbero dei tè americani sia che in bottiglia sia che in lattina, e in lattina in America costano ben 99 centesimi rispetto qua in Italia. Vabbè, ma stanno in America, stanno bene come stanno. Poi ho visto qualcosa che mi ha ispirato, ovvero la Coca-Cola ciliegia e vaniglia, solo vaniglia e solo ciliegia, ma voi non le ho comprate, diranno, ma che senso ha mischiare queste cose per una sola Coca-Cola? Esattamente, più che altro perché vessa ancora la Coca-Cola. Poi Sicuramente io mi sono preso anche i risi. Se i risi sarebbero dei snack a base di cioccolato, milk chocolate and peanut butter, ovvero il burro d'arachidi, che la risi fa... Andiamo anche all'inglese proprio, ormai. Che fanno cereali, tazze, big cup, cup da una sacchetta da 4, 3 e 2 cialde, solo classiche, mentre la versione white la fanno 2 cialde e 4 cialde, ovvero nella versione king size. E comunque io consiglierei di andare a Daniele e... Vabbè, insomma, cioè, siamo a capire che ormai questo è diventato il tuo negozio preferito. E inoltre, ai negozi snack americani potete scegliere anche Audi Store. Audi Store viene più roba italiana anziché americana, e li potrete in tutta Italia. Diciamo che quello più lontano a Roma è sulla via Tuscolana, ovvero sull'uscita del raccordo, dopo la Romanina. Perfetto, e quindi, cioè, mi sembra di aver elencato questo suo fantamondo in maniera egregia, e proseguiamo con un altro pezzo musicale. Abbiamo superato l'alba, abbiamo vinto contro il tempo, superpoteri dentro i corpi, mi guardo intorno mentre ballo lento. Tessera del supermercato, scontrini arrotolati giù, abbandoniamoci sul prato, quanti ricordi che non ricorderemo più, che resterà di tutto questo, chissà se lo racconteremo, e chissà quando cresceremo. La verità è che stiamo bene. fra le tante news che abbiamo detto, il primo anno di Jolly Roger, la collaborazione con Gemini Network, ritorniamo a quello che è Jolly Roger. Siamo partiti con delle rubriche che ancora proseguiamo e siamo fieri delle nostre rubriche. Una di queste è quella sui consigli degli acquisti del nostro amico Luca. Offerte nei supermercati Tigre, Tigre Amico e Tigre. Succo al gusto ananas consiglia a soli 50 centesimi. Cioccolatini Lindor a vari gusti. Latte, pistacchio ed extra fondente oppure a tavoletta a soli 1 euro. Prosciutto di Parma DOP a 2,50 euro. Spoiler, se volete andare in panetteria, stanno facendo i lavori, perciò vi consiglio di andare in un altro supermercato in panetteria. Mitico. E noi proseguiamo con un altro pezzo musicale e poi torniamo all'altra consueta rubrica del nostro amico Luca, che sono quello delle battute. Yeah, yeah. North of Loreto, baby. Io non ti voglio, ti pretendo. Bella Raff. Stanotte ti pretendo. Io non ho che te. Dietro nessuna mi nascondo. Dimmi che lui non c'è. Lo so che fra noi due più forte sei sempre tu. Ma dammi questa dolce morte, tanto non vivo più. Sento che ci stiamo cercando. È inutile che dici di no. Stavolta compromessi non scendo. Sei l'unico diritto che ho. Ti pretendo. Sei l'unica ragione che c'è. Stanotte vado fino in fondo. Perché tu hai bisogno di me. Io non ti voglio, ti pretendo. È inutile che dici di no. Questo amore lo pretendo. Sei l'unico diritto, l'unico diritto che ho. Yeah, G-U-A. Ti pretendo, come un bimbo Nintendo. Come l'estate quando è inverno. Come il freddo se sono all'inferno. Desiderio brucia dall'interno. Io non ti voglio, baby, ma ti pretendo a fianco a me sul mio Mercedes. Una città random. Ti parlo di Barcellona o Monte Carlo. Dimmi dove e quando. Sento che ci stiamo cercando. È inutile che dici di no. Stanotte siamo fuori dal mondo. Sei l'unico diritto che ho. Se c'è, se tu mi guardi non rispondo. Davvero non rispondo di me. Io non ti voglio, ti pretendo. È inutile che dici no. Questo amore lo pretendo. Non dirmi no, non dirmi no. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger e con i potenti mezzi che abbiamo a disposizione, grazie a internet, ci siamo collegati telefonicamente con il nostro amico Matteo. Ciao Matteo. Vai Matteo, pensa a lui. Saluta tutti quanti. Direte? Sì. No. Sì, si sente, si sente. Dicci qualcosa, salutaci. Oggi era la scuola. Oggi era la scuola, ma finito, mi ero. Eh sì, purtroppo il nostro amico Matteo ci saluta e vi saluta, purtroppo fisicamente non sta bene, anche lui oggi ha toppato a casa. E noi proseguiamo con un pezzo che aveva scelto lui e che dedichiamo, e ci vediamo sicuramente con lui la settimana prossima. Siamo in diretta, questo è Jolly Roger, non so se siamo riusciti a farvi sentire il nostro amico Matteo, che purtroppo non è con noi a festeggiare questo primo anno di Jolly Roger, ma tanto i festeggiamenti, i veri festeggiamenti proseguiranno a lungo. E niente, ora ritorniamo, come dicevo prima, varie sono state sono le rubriche di Jolly Roger, una di queste che hanno un riscontro positivo fra tutti i nostri ascoltatori è quello di Luca e sono le sue battute. Come ha detto Pietro poco fa, eccoci tornati in diretta, che tra poco finiremo, ed ecco qua le battute. Grave incidente a Babbo Natale alla sua slitta. Ricoverato in ospedale, attende un trapianto di renne. Ma d'inverno si leggono più libri perché hanno la copertina? Mi rifiuto, disse il netturbino. Lino? Lino c'entra se ci stringiamo un po'. Quando piange un pero, quando è disperato. Muovere una gallina con la febbre, fare le uova sode e mangiarsele. E queste erano le battute del nostro amico Luca. E potete riascoltarle come sempre tramite podcast collegandosi al sito, e noi proseguiamo con un altro pezzo e piano piano ci avviciniamo alla conclusione di questa che è la nostra puntata. Sopra gli occhi. fa rumore mai. Segui solo il suono dei miei passi e fidati, ti porteranno dove io ti porterò. Via da qui, via da qui, via da qui, via da qui, c'è un mondo d'altri tempi dove tutto è perfetto, ancora è perfetto, e l'uomo può credere che di tempo ce n'è abbastanza per rimediare a sé. Mani strette intorno ad un filo di odori che non credi aver sentito mai, ti perdo in quello che tu non conosci, provando a immaginare dove io ti porterò. Via da qui, via da qui, via da qui, via da qui, c'è un mondo d'altri spazi dove tutto è perfetto, ancora è perfetto, e l'uomo vuol credere che di tempo ce n'è. Niente, perché non stavamo ancora on air, quindi ritorniamo in diretta. E stavo dicendo che siamo alla chiusura di questa nostra nuova puntata, la puntata del 2 di dicembre. Sono gli ultimi pezzi per noi e niente, stiamo raccontando da inizio puntata quello che è il primo anno di Jolly Roger. E ora chiedo un attimino, un po' come Alice ci ha raccontato alcune cosette di Jolly Roger, chiedo a Luca cosa ne pensa di Jolly Roger, ovviamente. Allora, io penso che il Jolly Roger sia una radio alquanto divertente, perché puoi parlare del... Guarda, sentite che voce impostata da bravo speaker che in quest'anno ha sviluppato il nostro amico Luca. Stavo dicendo che Il Jolly Roger è una radio alquanto simpatica, forte, che noi possiamo raccontare delle cose che vogliamo, non delle stesse cose sempre che altrimenti raccontavo io. Altrimenti parlavi da solo, come ti dico sempre io. Che poi ci consigliano anche i nostri operatori che ci vogliono tanto ma tanto bene, che resteranno sempre con noi a farci compagnia. E io spero, prima di dirlo, auguro buon compleanno alla radio Jolly Roger e spero che una volta faremo anche la radio insieme a Nicola, Emanuele, soprattutto a una persona che tengo, che è stata non tanto con me, ma io intendo Luca Corsi di Puzzle Totem. Perfetto, quindi Luca ci ha raccontato alla maniera sua quella che è Jolly Roger. Intanto facciamo fare il nostro consueto saluto al nostro amico Lucone. Buongiorno! Ecco qua, il nostro saluto e il nostro buon compleanno da parte di Lucone. E proseguiamo con il penultimo pezzo musicale per noi. Got what it takes to make the club go out of control. Quick play, turn the music up a little bit. Bounce with me now, shout it, let's get into it. You know I got what it takes to make the club go out of control. Quick play, turn the music up a little bit. Bounce with me now, shout it, let's get into it. Trust me, man, it's okay. Bounce with me in slow-mo. When they hear the kid in the house, they're like, oh no. 50 got them looking again. They open again. Got them sipping on that juice and gin. You can find me in the background burning that backwoods. Stylin', stunting, doing my two-step frontin'. Now I'ma tell you what M told me, homie. Just lose the parental discretion's advised. This is grown folk music, now blend in with me. As I proceed to break it down, it's always off the chain, man. When I'm around, I play the block pumpin'. It was all for the dough. I get the club jumpin', cause I'm sick with the flow. You know it's so loud, like wherever I go, I jam back the show, man, that's for sure. I got the info, you already know. Man, I get it poppin' in the club, everybody show me love, let's go. You know I got what it takes to make the club go out of control. Quick play, turn the music up a little bit. Bounce with me now, shout it, let's get in the way. You know I got what it takes to make the club go out of control. Quick play, turn the music up a little bit. Bounce with me now, shout it, let's get in. It's like a throne that he don't even own. He won't sit down, give him a crown, he just throws it around. It's like a joke, he's like a king, but he don't rule a thing. He don't want the diamonds, wants the gold, or wants the jewelry. He don't want the ring, don't want the loot, he's in it for the sport. Running circles round his competition on the court. He appreciates your support, but he ain't begging for it. And you can love it, you can hate it, but you can't ignore it. You can't be that ignorant, but you can try to sell him short. But you can't fuck with his last. Join all the one before it. And he was born to raise hell like them country boys. And if I'm frontin', then you better come confront me for it. Can't be that ignorant, though you can try to sell him short. But you can't fuck with his last. Join all the one before it. And he was born to raise hell like them country boys. And if I'm frontin', then you better come confront me for it. Better come confront me for it. You know I got what it takes to make the club go out of control. Click play, turn the music up a little bit. Bounce with me now, shout it, let's get in the way. You know I got. E ritorniamo in diretta, ultimi minuti per noi, per Jolly Roger. Ci potete riascoltare tramite podcast e salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano e ci riascoltano. Salutiamo tutti il Branca, un weekend molto lungo in quel del Branca Leone. Si inizia stasera con le Ashine in concerto, domani con iniziativa di Vinamico. E domenica proseguirà con tante altre cose, insomma. E ci ascoltiamo, ci risentiamo settimana prossima. Dedichiamo l'ultimo pezzo a tutti quelli che ci sostengono e a tutti quelli che ci supportano. No indication when something goes wrong. That's no way of knowing what's in my downtown. Got so many ways to choose from. One will run me out of time. As I'm looking for direction, oh, I smile to make my lane. I'm leaving in my bubble, cause I don't wanna risk or lose my mind. Fire's still burning, my tears are falling. I'm facing all my troubles, cause you won't caress me one more time. You can deceive me when I look into your eyes. Stumble, quench away my thirst. Lead me as I fumble, or when I lose control. As I wander through the season, as my path is going astray, I'm just looking for protection and a chance to get away. I'm leaving my bubble, cause I don't wanna risk or lose my mind. Fire's still burning, my tears are falling. I'm facing all my troubles, cause you won't caress me one more time. You can deceive me when I look into your eyes. Caress me one more.